ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Tardissimo, è mezzanotte 07, quindi già il giorno dopo parte questo vagonaccio numero 29 di Parla come scrivi. La voce chiocciata che sentite è quella di Strelnik, ma il vagonaccio stasera è veramente in un grande splendore, perché alla mia destra, cenno rispettivamente... Io non ci voglio stare a destra. Allora, ok. Anche se ci sto vicino, a destra, sì. In effetti. È difficile essere tu a sinistra di Strelnik, però... E avete appena sentito la voce di Liv, che ha alla sua sinistra. Oh, invece... Alla sua sinistra invece ci sono io. Voltati anche tu verso di me, Strelli. E guardiamoci negli occhi. Prendiamoci per la radio negli occhi. Cari tele, radio, web, ovo, spettatori, non potete vederci, ma noi siamo qua a guardarci negli occhi. E che occhi? E che occhi sono quelli del Cremonini. Ragazzi, è vero. Salve a tutti. E quindi avete sentito l'equipaggio al completo di questa puntata numero 29. Sociologo Calzolai, Liv e il nostro Simone Cremonini. Nuovo di blog, perché su cremosimo.wordpress.com trovate i suoi pensieri, le sue parole scritte. Così come stasera siamo in questa puntata, yes. Parla come scrivi, dove non c'è ancora un argomento preciso. Noi ci siamo fatti condizionare un po' dalla televisione, stavamo attendendo il nostro sociologo Calzolà, e quindi io, Liv e Simo abbiamo affrontato una puntata di anno zero. Sì, carina. E sulla casa c'era Daniela Santanché, c'era il Fausto Bertinotti. Sì. E c'era un casino di gente che invece la casa non ce l'aveva. Non ce l'ho nemmeno io. Che addirittura c'aveva la casa con l'amianto, e sono anni, svariatissimi anni, che c'è la casa con l'amianto. Le White di Milano. Io sono contento, ragazzi. No, veramente. Ci sono aver visto allo zero? No, sono contento perché mi piace sentire le vostre voci. E anche quello che voi pensate. E sono contento perché in una sera, così, dalle 9 fino ad ora, di voci ne ho sentite tante. Ragazzi, vi posso assicurare che queste sono le più belle. Io ho le vostre, perché quelle che ho sentito prima, ma soprattutto il tipo di pensiero e di riflessione. Qui si parla di casa, cioè il problema della casa, cioè il primo problema. Ora, io mi piacerebbe tanto poter dire che cosa ho fatto fino ad ora, ma io, che sono un sociologo, spesso mi confronto magari con altri sociologi. Con il mondo. E parliamo. Deve parlare. Parliamo di tutt'altro, quando in realtà un sociologo dovrebbe parlare di case. Di case. La sociologia, cioè parli di sociologia, la sociologia è un discorso, e parli di case, perché è un elemento del possesso. Tu possiedi una cosa, è la prima, non proprio la prima, però una riflessione banale, una delle prime riflessioni sociologiche. Invece quando si parla con i sociologi, mi viene la pronuncia della portoghese, non so perché. Lo sappiamo noi. Tabon. Che poi sembra un po' romagnolo, la sociologia. La sociologia, andiamo. E quando voi parlate, voi sociologi, invece? Quando noi sociologi portoghesi parliamo. No, quando falate, quando falate. Quando c'è ci fala. No, tabon. Sta meglio a parlare in italiano perché... Io acho che uno su telespettatore, ovo, radio, telespettatore, sono demais italianos. E assim che dobbiamo parlare, sono in italiano. Che tu acha, Cremonini? Che non capisco una serie. Sì, signor. Comunque, anch'io sono rimasto. No, io ho capito. Grande, io ho capito. Facci la traduzione. Curaçao. No, mi ha detto che comunque si potrebbe parlare portoghese, ma i nostri spettatori non è che lo sanno, quindi è meglio parlare in italiano. Grande Liv, poligrotta. Poligrotta, che è un posto. Poligrotta, che è un posto fuori Roma. Chissà, un tipo. Liv ti vedrebbe bene, una persona poligrotta. Poligrotta, vero? C'ha due o tre grotte. Sì. A proposito di case. A proposito di case, perché non dire che la prima casa è stata la grotta? La caverna. La caverna. Sì. Di Platone, la caverna. Dove ci si andava una sera. Dove? E la mattina si riusciva. Sì. E poi si rientrava la sera se l'orso non era entrato. Se l'orso non era entrato nella grotta. Era una grotta. Invece delle grotte noi... Però erano gratis. Erano gratis. I garage di Milano invece sono molto, molto... Te mocciamo un orso per entrarci, però non fai... I garage di Milano invece sono molto, molto più dispendiosi e ce li canta una nostra, possiamo ben dirlo, vecchia conoscenza, Vasco Brondi, alias le luci della centrale elettrica. Enz, ti si nomina per la prima volta stasera, azzeccacela, azzeccacela, Enz. Bafori cominciavano a lampeggiare arancioni, mi puoi spiegare il colore acciaio del cielo, le sfumature di grigio di cui ti parlavo, del cielo berlusconiano di Milano. Milano era veleno, Milano era veleno, e il paradosso del cielo notturno illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose, tifosi violenti, arruoliamo brigatisti, mar, deserti sui navigli, staremo ad abbaiare a questo cielo da rottamare, al cielo su Berlino io lavoro in nero. Milano era veleno, Milano era veleno, Milano era veleno, il paradosso del cielo notturno illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose. Milano da bere, Milano da bere, tifosi violenti sparano ai satelliti intelligenti, ai bar deserti su navigli. Curiosità ci divorava, la curiosità ci divorava. Yeah. dei terroni. Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi vuole... In diretta su Radio Catrame 19. He broke from them, and then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors, horrors that you've seen. Allora, social. Sì. Perché ce l'hai con i sociologi? G. Ce l'ho con i sociologi, perché... Però non quelli di stasera, che erano carini, dai. Però non si è parlato di case, e nemmeno di caverne. Né di case, né di caverne. È tempo delle caverne, e si stava meglio, si stava peggio. Non si faceva di sicuro il sudicio si fa ora. Ebbene. E questo era una gran cosa. Però, a proposito di sudicio, cioè, io ero a Napoli, ad un convegno dei sociologi. Non diciamo il titolo di convegno, sennò poi vedi che non fanno un culo. Però, la domanda è, è possibile che su 70 diversi interventi non ce ne sia uno che racconta della merda che sta fuori dall'entrata di quella facoltà dove si teneva il convegno? Napoli inondata dalla spazzatura e la sociologia? Nisba. Eravamo lì a pensare. Non c'era il sociologo numero 2. No. Non c'era. Eravamo con un altro sociologo. Il numero 44. Il numero 44, sì. Il numero 44 ti parla come scrivi. E invece, secondo te, se la sociologia si dovrebbe occupare? Ce l'hanno il suo DNA? Se non lo fa, ma è chi lo fa? La storia dice che non può subito, ma perché ha bisogno di un tempo di X anni per guardarsi indietro. Perché in realtà la storia... in quanto tale, il presente non riesce a capirlo se non dopo un po'. Ma sociologi, cazzo! Quelli sì. Io penso anche la storia invece si possa capire il presente. C'è l'uomo del sociologo. No, ti portavo su altro... No, continuiamo con tutti gli l'uomo del sociologo, chi è? Perché non è un problema di... Il problema è chi vai a studiare, chi vai ad indagare. Cioè, l'uomo del sociologo non è uno che consuma, è un lavoratore. Ma la sua dipendenza sulle future generazioni, cioè non è quello il tuo oggetto di studio, è una volta un lavoratore, una volta una persona che si reca in chiesa una volta alla settimana, è un elettore del partito tot, è così, i sondaggi, la sociologia politica, però riuscire a mettere insieme queste figure, ma soprattutto indagarsi di un nuovo individuo, cioè una nuova persona che orienta la tua riflessione, cioè l'uomo del nuovo sociologo bello. Cioè, è un uomo che sta con mondi differenti completamente, ma nello stesso luogo fisico, la rete e il territorio, cioè tutta la riflessione, la Gemeinschaft, cioè la contrapposizione tra un sistema Kessel e un sistema locale, massimo sistema, il sistema sociale e la comunità locale, cioè oggi la si potrebbe non soltanto ribaltare ma annullare, mentre invece questo ha influenzato, influenza tuttora la sociologia, non tanto nella predisposizione teorica ma quanto sulla porta che ti permette di entrare nell'universo del sapere, cioè ti blocca la ricerca perché fondamentalmente siamo influenzati da un altro tipo di oggetto di studio che è l'uomo economicus, probabilmente sì, o comunque sia è un uomo che apparteneva alla vecchia società, mentre invece la complessità dell'uomo di oggi non è compresa nel momento in cui pensi gli studi e la ricerca. E ora, detto questo, perché non so se può annoiare oppure può. Chi lo sa? Chi lo sa? Sparigliare. Sparagliare? Sparigliare. Oppure sparagliare tutto quanto. Oppure potrebbe dare adito ai primi leggeri segnali di sommossa. Per finire poi in una rivoluzione. Appunto, questo me lo chiede il sociologo. Vai. Ma il sociologo, secondo te, il sociologo visto dal sociologo, che ruolo, qual è il ruolo che secondo te può avere in questa società il sociologo, in questo momento preciso storico in Italia, qui, ora? Dicevo, madonna di Dio. Cioè, secondo me ce l'ha? Senti, no. Il sociologo adesso, no? In questi giorni... Questo no l'ha detto Streni. In questi giorni il sociologo tipo è quello politico, che studia l'uomo politico, in quanto non lavoratore, non di confessione religiosa, ma in quanto elettore e basta, il resto non ce ne frega niente. Mo, tu dimmi, no? Questo uomo così di questi giorni è un po' confuso, sembra. Perché uno dei vostri strumenti, correggimi se sbaglio, è anche il sondaggio, che è uno strumento un po' popolare. Cioè, che strumento è questa cosa? Cioè, la domanda è un'altra: ma Pagnoncelli dice la verità o no? Ma il Niner dice la verità o no? Secondo te ci si può credere a questi sondaggi o no? E soprattutto, quando i sondaggi dicono che un 30% delle persone, quindi tante, non sanno a che fa, che cosa succede? La sociologia va in crisi o no? Il 30% la sociologia mi, cioè, può offrire un'interpretazione, però ci è sempre più difficile. Cioè questa, cioè, la fetta degli indecisi aumenta la crisi di identità, il senso di appartenenza ideologico, c'è ancora, ma dove sta? C'è poco, comunque sia, no, quella presa. E però quando c'è il 30% di indecisi, e probabilmente anche gli altri qualche domandina se la pongono. Infatti il problema è sul piano istituzionale, che non c'è le istituzioni. Cioè, te stai domandando relativamente ad una cosa che sta in un contenitore inesistente. Quindi tutto il frame che forse concettuale non esiste. Tutto il frame sociale di prima, facciamo categoria d'analisi banale di prima, ma probabilmente giusta, quella lì non c'è più. Posso intervenire? Avete 40. Enz mi dice che stasera abbiamo i blocchi, abbiamo ancora 43 secondi. Poi c'è un tassativo. Poi c'è una canzone. Il fatto. Il sociologo. No, mi passa il tempo, mi sembra di essere in corso. Oh, la par condicio è questa. Stasera proviamo i blocchi, ragazzi. Stasera per la prima volta noi ci siamo ai posti blocchi. Stasera ci abbiamo i blocchi. Allora, e mancano 25 secondi. Proviamo a non dire nulla in questi 25 secondi. Te hai analizzato un momento sociale, no? Cioè, hai fatto le elezioni, il 30% 20. Che aumenta la crisi di identità, non c'è valore, non c'è istituzioni, per cui c'è un vuoto. Il sociologo può offrire 15. Un modello? Il sociologo risponde... Feel confused, steampolket. Dopo. Zero. Dopo le risposte. Yeah. questo ed altro su Radio Catrame 19. Sociologia studia, analizza, no? Io mi chiedo, può trovare il ruolo del sociologo, può essere quello di trovare delle soluzioni alternative e quindi creare dei modelli e quindi avere un ruolo attivo nella politica, nel senso lato del termine, tenendo nel politico appunto il fare le cose. Certo che lo può fare. Per esempio, lo si è detto tante e tante le volte. Posso fare il sociologo un po' foscano? Sì, sì. Sembra di essere fino ad ora sì. È una vieni più vicino a San Donnino invece che a Teramo. Sì, vieni più vicino a Teramo. Indossiamo qua? A Teramo. Cioè il vagonaccio è localizzato dove? In questo momento qui nei pressi di Teramo, vicino a una stazione, in una zona industriale in disuso detta... non si può dire. Ma io per arrivare qua faccio chilometri e chilometri, sì, in galleria. Cioè io credevo chissà, e invece sto in questa città a Teramo. Vabbè, stasera siamo localizzati in questa ma metafisicamente oppure ci siamo davvero? Questo è un dubbio che dobbiamo lasciare agli ascoltatori del podcast. Col cuore siamo a Torino perché diamo tanti auguri a Erika. Ciao. Erika, tantissimi auguri di compleanno, tantissimi auguri grazie anche a Andrea. Andrea Roncaglione che stasera debutta comunque a uno spettacolo al Maché in quel di Torino, uno spettacolo che si chiama Maché o Maché hai detto, comunque. E stasera è bello, Roncaglione. C'è stato già anche il nostro Guidonio Catalano, c'è stato l'Arsenio Bravuomo che latitano un po' adesso sui palinsesti di Radio Catrame 19, ma che con la primavera e con i primi pollini riarriveranno. Torneranno a sfociare i fiori. Sì, ma questo sociologo, allora abbiamo detto tutto questo ambaradan che tu dicevi, questo contenitore vuoto che sono le istituzioni, questo frame di riferimento che cade, non c'è più. Qui ragazzi siamo in una fase molto... Ma noi ci sa poco tempo perché stasera perché ci sa parla, perché a Parla Come Scrivi si fanno solamente le domande senza risposte, le domande durano 6 minuti, la risposta 20 secondi. Cioè è un problema, diciamo, che... Perché noi siamo nella grande scia dei programmi che pongono interrogativi invece di risolverli, che la nostra grande madre è fare. Chioccio. Con l'H in mezzo, vero? No, però Marino Sinibaldi le risposte le dà anche, cioè. Sì, e poi comunque lui c'ha 3 ore di diretta al giorno e quindi... Può dire quello che però comunque si rallegra molto quando qualcuno pone dei dubbi, perché i dubbi sono sempre sani, almeno, no? Sì, però... La soluzione sta sempre nel vogliamo la domanda. Facciamo solo domande. Ma anche il godimento. Anche il godimento è la domanda. La risposta... quando la risposta è finita anche la domanda è definito tutto. La tensione. Allora non rispondo, sto zitto. No, ora. Allora si fa una puntata solo con domande. Risposte cazzi vostri, andate a sentire un altro programma. Va bene. Noi siamo quelli che fanno le domande. Va bene, allora do la risposta. Non si può. Io voglio capire. Sociologo, poniti un'altra domanda da sé. Ma da perché? Senza chiude lezioni, un'altra domanda no, senza... No, prima risponda a Cremonini e poi sulle lezioni, perché Cremonini lo vedo che si sta arrabbiando. Mi rispondi, ecco, il programma di domande. Allora, potrei rispondere un'altra domanda, ma non lo faccio perché non mi vengono il programma delle premesse. Però come esercizio a casa provate a tradurre la mia risposta in una domanda. Successivo così, torna tutto. Però per esempio i sociologi, ma andiamo un po' e via, l'hanno detto che negli enti locali e si sputtano un casino di sorti. Si è detto e si è ridetto. Di molti studi l'hanno detto, si è detto anche qualche volta, non si è proprio detto, però gli è stato detto. Oppure, e si è detto che il capitalismo italiano non è che sia proprio il massimo, e che probabilmente non siamo in un sistema di concorrenza perfetto. Non si è detto, e si è detto, si è fatto tanti studi. Chi ci ha sentito? I giornalisti. Probabilmente sì, qualche giornalista. Qualcuno legge i libri ogni tanto, cioè gli studenti. Ma si è detto, ci potevano ascoltare anche i politici. Cioè, se volevano, o non sanno, c'è il ministero dell'università, o non sanno, c'è la sociologia. Non ci dobbiamo fare, appunto, un formulate un bel modello, una bella corrente di pensiero, sì. Come c'era di Zurmendrang, queste che vabbè. Qualcosa. Però bisogna che comunque permei di più nella società perché sia. Può essere anche un movimento che può essere scoperto dopo, può essere anche fra 100 anni. No, guarda che sociologi in quel tempo lì, e io lo dicevo, cioè, per esempio, non credo che al tempo di Weimar non ci fosse nessuno si stesse accorgendo che stava succedendo qualcosa, o che al tempo appunto del fascismo non ci fosse qualcuno che l'avesse detto prima, o che. Ma Weber, cioè, quando Max Weber parla del capo carismatico e lo contrappone al dittatore, c'è un libro di Cavalli che è incredibile. Cioè, la teoria di Weber racconta Hitler. Hitler, esatto. La racconta un po' d'anni prima, sì. Fece anche fare la Repubblica di Weimar. E insomma, la sociologia l'ha sempre detto. Non tutti, via. Cioè, proprio, non è che probabilmente anche Bischeresta ha detto, oppure qualche, soprattutto qualche pensiero non troppo convincente, forse un po' debole. Probabilmente sì, così. Anzi, forse tale. Per esempio, oggi dovremmo parlare di case. Come si stava parlando prima, o comunque sia di cose che ci riguardano, e comunque sia si potrebbe iniziare da capo a rifare tutti i collegamenti, si faceva dall'inizio. Senti. Se si volesse, ma invece si ritorna a. No, ti volevo dire, hai detto bene di Weber che lui aveva fatto in effetti un'analisi dei suoi tempi perfetta, in tempo reale, come si dice, anzi, forse anche prima, è solo che ce ne siamo accorti dopo qualche anno che a cazzo c'aveva ragione. Tanto che è rimasto come un sociologo di riferimento per quelle cose. Secondo te chi è che adesso potrebbe avere ragione? A me mi viene in mente uno solo, mi viene in mente Bauman, perché legge tutta la società con il concetto di liquidità negli affetti, a livello economico, a livello sociale. Tu dici che potrebbe essere una cosa questa? Cioè in realtà una società che si è liquefatta, cioè priva in realtà magari di legami o di cose, quindi anche di case, che una casa certo è, ma non è proprio liquida, un mattone solido. Quindi la chiave di lettura di questo terzo millennio potrebbe essere questa, la liquidità politica, la liquidità sentimentale. Però se ci pensate bene, e poi la lascio a te, perché c'è una risposta su questo, cioè interpretare il mondo come se fosse, cioè la società, ma poi anche il mondo, perché il mondo delle parole, delle culture, in questo senso il mondo, cioè alla fine dei conti è facile, cioè in realtà te non puoi descrivere la società come un sistema liquido, perché nei liquidi non trovi le forme, cioè racconta forme che prima potevano avere dei lineamenti, una silhouette che forse col tempo si stanno leggermente sformando o acquisendo altre forme, ma la società non è certo così liquida come poi da descrivere la lettura dei libri di Bauman. Cioè ancora ci manca arrivarci. Ci manca arrivarci, perché ne abbiamo parlato qui delle mille strutture e dei mille rapporti differenti che raccontano i rapporti di forza tra ceti, classi, individui. E allora io mi domando e continuerò a domandarmi, ma mi pagate voi per queste lezioni di sociologia? Mi pagate o no? Perché poi io, qua si fa per scherzare le volte, però. Le volte anche il discorso si è fuori, si fa anche per improvvisare. E vorrei un attimo, vorrei interrompere, io non sento, non ho nulla nell'audio. Ci sono dei problemi tecnici? Sì, c'è un momento Hans. Di Hans. Allora, facciamo una cosa, mandiamo. Adesso invece. A posto, allora, ci siamo tutti. No, io no. Facciamo una cosa, mentre Hans ci sistema, così ci prendiamo una piccola pausa da questa digressione che stiamo facendo, però molto, molto proficua dal punto di vista sociologico. Hans ci manda Guns of Revolution, Red Rockers, e noi sistemiamo le nostre cosine tecniche. Thank you. Torniamo, anche se non, io non mi sento, mi sento poco. Voi mi sentite? Poco. Poco va bene. Voi ti senti? Enzo stasera sì, ci ha portato un po' di merda addosso. Io sento veramente, anzi non mi sento. In questo momento non mi sento per nulla. E allora qui ragazzi ci sono dei problemi. Sì, sono dei problemi tecnici. A parte ci sta il rinnovo di contratto. Pronto? Cioè... UVC rinnovare il contratto da un anno, cioè io lo dico a quelli dell'autore. Te lo senti? Certo che sento, ma io sono un cavolavo gli autori, sono coproprietari. Cioè il contratto il tavolo. Lo so, siamo tutti precari qui a Radio Siamo tutti precari. E poi io non mi pagano nemmeno la trasferta. Agli occhi, ragazzi. Tu pensa che Enzo deve andare. Adesso si sta a fare i soldi solamente lui perché va a fare il fonico ai comizi. Ha pure il fonico la Fantanché e si è preso 150 euro. Ma no, è una cosa vergognosa. Ho capito, ma Enzo almeno con selezioni ci svolta, sarà l'unica persona a guadagnarci in tutta l'Italia, insomma. Vabbè, però anche Enzo è uno sfruttato, mal pagato, frustrato. Nemmeno poi Enzo, scusa tanto, però qualcosina faccio la trovare avverso. Deriso e derubato. Cioè, lui ci trattai proprio. Cioè, io. Lui gli mancano due settimane, quindi gli mancano ancora 14 giorni di comizi, 150 per 14, due soldini se li fa. Sì, ma un po' di rispetto per noi. Cioè, io ragazzi per imparare questa parte di sociologo ci ho messo 2 anni. Cazzo, ma quant'è che ci si prepara? No. Anni, quant'è? Anni. Anni. Allora, ora mi rifà. Attenzione perché ci sono problemi. Fermo così, fermo. Sì, problemi forti. Con i figli. I problemi grossi con i figli. Cioè, abbiamo un sociologo che è preparatissimo, però con i fili non è. Siccome siamo un intreccio di fili. Stai facendo la ola con i fili della radio, no? Non è che fai il lanciatore. No, non sento più niente. Comunque va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Te lo diciamo noi quello che stiamo dicendo. Senti. Vabbè niente, se ci fosse una webcam vedreste tutti quanti qui agitati a smuovere i fili. Sì. Io. A Marino queste cose non mi succedono mai, perché in realtà la Rai c'ha i fonici seri. Vabbè, ma perché noi stasera non abbiamo fatto senza il nuovo salvacondotto che abbiamo. Sì, in realtà. Il preamplificatore delle cuffie. Siamo tornati un po' ai tempi vecchi per partenza. Buoni bimbi su. No, fermi, raga, non tirate, se tirate così è finito. Ci sono dei problemi con i fili. No, non tirate più. Io fermi. Mi cavolo davvero. No, perché è possibile lavorare così. No, è possibile lavorare così. Cioè, noi siamo dei professionisti. Se studiato. Da quanti anni che fossi studiato? Io ho finito. Io lo so, da tanto che ho studiato che non lo so. Si è rotta. Ecco. Siamo arrivati, ragazzi. Oh. Siamo arrivati e si è addirittura. Attentato a Radio Natale. Stranic, io direi che ti puoi star buono perché due si è giorni. Rotta, è no, stato sì, tira. Non è che è tira. Tu e due giorni qualsiasi cosa che tocchi rompi, rotto un computer, il bicchiere. Oh, mio, leva le mani da qua. Ragazzi, gente, tira. Se chi mi... sente ora? Tutti. Nessuno. Ma troppo. Io non ti senti? Niente. No. Allora, ragazzi. Ti senti? Io direi io no. Ok. Io direi una cosa, che se fossimo in televisione adesso sarebbe apparso lo schermo quello a colori, che quello dice, blu. Quello blu che dice trasmissione il prima possibile. Adesso noi come facciamo a simulare con la voce lo schermo blu? Facciamo blu. Blu, ora sentite tutti. Sì. Tranne io, giusto che non sento. L'hai rotto. No, no, l'ho rotto, è che voi tiravate. Perché tiravate? Si tirava perché mi funzionava. Capito, ma se tiri si rompe. Vabbè, sono cazzi nostri messi ai nostri. Ah, tu tiravi pianino, un cosino, no? Io non tiravo mia, tenevo altro. Leva quelle mani che ti do una canzone ci vuole. Flash Eaters. No, ragazzi, siamo fine. Radio Dies Screaming. La radio muore urlando. Questa è perfetta. Ecco, è perfetta per l'occasione. Problemi tecnici con grossissimi, si sta spaccando tutto, il vagonaccio sta saltando letteralmente in aria, io non tocco più niente, ma ha detto Enzo che appena tocco qualche cosa mi ci tira qualcosa sopra. Te Enzo intanto però fanosa, metti un sottofondo di quelli giusti, perché ha sbagliato un'altra volta. E allora, finale di puntata direi sul catastrofico, no? Sì, sul dopo catastrofico. Tutte queste dissertazioni sul Cloverfield sul ruolo della sociologia, insomma, il dio dei sociologi ci ha punito perché ci ha spaccato d'ogni occhio. L'anima di Weber. L'anima dei mortacci su. Che infatti quello dell'ultima cosa, però se me la ricordo, no? Sì. Parlava Liv di Bauman della liquidità. Prima avete accennato Weber. Che nessuno ha la liquidità. Weber che ha previsto un certo tipo di comportamento. Di alcune persone, no? Sì, sì. Io penso che ce ne sono tanti che hanno ragione, che possono essere come Weber. Il problema è trovare, il problema è di comunicazione, secondo me, perché come Bauman dice della liquidità, magari c'è qualcun altro che lo dice in un altro modo, magari c'è ancora un altro, il barrista di Lodi, che lo dice nel suo modo. Sì, sì. Io penso che quando dei fenomeni siano così forti e così anche preannunciati, tutti lo prevedono in qualche modo. Il problema è trovarsi d'accordo su qual è il canale di comunicazione che ci permette di leggere le stesse cose. Ho capito, ma come fai? Hanno trovato le parole nuove allora. ho trovato delle parole nuove, oppure dal basso si alza verso l'alto, ma è difficile, allora è l'alto che si deve abbassare. Io, guardate, c'ho una riflessione politica, sociologica, su questa cosa delle parole, su queste parole qua che ha detto il Cremonini, la vuole fare. Ed è proprio sulle parole e sulla politica. Cioè, oggi si sono utilizzati e siamo arrivati al completamento. Abbiamo esaurito i termini, le parole belline del dizionario dei vocaboli della lingua italiana. Il girasole che era c'era già stato. 120.000. Sì, il girasole c'era già stato. L'ulivo già si è preso e poi non ci sarà più. L'arcobaleno. E c'è stato già poi. Ebbene, c'è ora. E che ci manca? Rose, garofani, questi ci gli sono. Animali? Tre. Margherita, anche questo c'è. Poi che parole c'è? L'olio? Che parole c'è? Ma sono qui i prossimi partiti saranno nomi di sostanze chimiche. Cioè, quali saranno i nomi? Cioè, le parole... Tipo, i radicali saranno il tetracannaminolo, sì, tipo, che ti posso dire? Sì, Casini la valeriana, Bertoni la malva, Berlusconi il ginepro. Sì, qualcosa di genere. Queste lì. Oppure no, sostanze chimiche però, cazzo, ho detto sostanze chimiche. Oppure i nomi chimiche. Di medicinali. Ma anche... I nomi di medicinali. Ma, sì. H2O. Sì, H2O. Il Sustanon, la Lega è il Sustanon. Sustanon che è la medicina per la contro l'erezione. Prozac si ripiglia. Prozac, esatto. Però la Lega non lo cambia nome. A parte che c'è qualcosa. È già di... la Lega. Video, la Lega, carbonio e... Vabbè, la Lega ci vuole il Viagra. Come di allora. Qualcuno si chiamerà amianto, veramente. Amianto no, cazzo. Amianto. E fanno l'effetto dell'amianto però, se lungo tempo. Criptonite. L'opposizione. Un partito d'opposizione si chiama Criptonite. Noi siamo la tua Criptonite. Bertinotti e Criptonite. Oppure, madonna, anteose. Oppure ragazzi. I metalli, oro, platino. Ma insomma, ecco. L'hanno chiamato come mi pare. Forza, no, l'hanno chiamato forza, come mi pare. Forza, ma platino. Chi si inventa la parola giusta? Guarda, vince. Sta a posto. Vince. Forza, platino. Vince, quantomeno, cioè, arcobaleno. Cioè, sul piano politico, arcobaleno o pan con l'olio è la stessa cosa. È diventata una questione di copyright. Cioè, no, io non ho capito una cosa, perché non è... No. Io non capisco l'articolazione, perché non è sinistra arcobaleno, ma è la sinistra l'arcobaleno. Questo grammaticalmente... Cioè, la sinistra l'arcobaleno, non è la sinistra l'arcobaleno... Perché la sinistra... dice sinistra arcobaleno, cioè siamo tanti, siamo messi qua e siamo l'arcobaleno della sinistra e va bene e ci sta bene e carino l'ambiente, ma la sinistra l'arcobaleno e ci sono verdi, dai, che non sanno che vogliamo fare, cioè non è pane e olio, è pane olio, la sinistra l'arcobaleno, la sinistra l'arcobaleno fettunta fettunta. E allora siamo arrivati in finale di puntata con le cuffie spaccate. Sì, una pretante, allora vi anticipiamo una cosa molto importante che abbiamo, i nostri autori ci hanno confermato giusto poco tempo fa, l'avevamo chiesta, ve lo diciamo adesso. Noi il 15 di aprile in diretta con lo spoglio elettorale faremo Radio Quetrame. Esatto. Con i nostri sondaggi, con il nostro sociologo Carbonai che ci leggerà tessera per tessera spogliata, che cosa è successo? E Radio Catrame vi farà entrare, accompagnerà insieme nel nuovo governo. Qualunque esso sia. Ahimè, che già forse. Dice, ma dice Radio comunque, Catrame vi aiuterà. Ma quindi quest'anno, sentiteci. Alla televisione bisogna essere in concorrenza, perché la televisione, ha detto Fede, fa allo spoglio. Di ogni cartella ci mette la musica di 9 settimane e mezzo. No, ma questa, a parte il broglio, ma comunque. Quindi noi saremo qui in diretta. Noi saremo qui, vi diamo la buonanotte con una canzone. Nessuno. No, non diremo no. Sì. Fine inglese. Sì, arriva dopo, che arriva dopo. Arriva quando parte la canzone finale. E ti monta. Perché loro sono gli EDH City, la città di mar di testa. Ma c'è la città dei mari che cantano You Can Never Win. Non si combina sempre vinci. Dai, ora se no, tutti a voler vinci, a voler vinci. Ragazzi, vinci, buonanotte, ci vediamo lo spoglio. Ciao. Vai. Ciao a tutti. Buona. Ciao. Catrame 19, la tua web radio inusuale.